me si cercano stordi sogni di gioie risate che non toccheranno mai. Anime si trovano a sorprendere sguardi che incrociano momenti in cui rubare un po' per sé. Anime che lasciano scorrere il tempo ma che non distruggerà ciò che si è costruito, anche solo per metà. Con le mani, con le braccia, con i corpi avviati attorno a sé, con le labbra affamate di sapori e odori che rompono barriere, abbassano difese, accorciano distanze e uniscono anime a metà. Respingono e lottano perché per loro da gioia a dolore il passo breve è. Anime senza coraggio si fanno male e chiudono spiraglie e meno luce li illuminerà. Ma queste anime strette in questi corpi che sono i nostri corpi si cercheranno ancora e si respingeranno e si sorprenderanno. E con le mani, con le braccia, con i corpi avvinghiati attorno a sé, con le labbra affamate di sapori e odori che rompono barriere, abbassano difese, accorciano distanze e uniscono le nostre anime a metà. E con le mani, con le braccia, con i corpi avvinghiati attorno a sé, con le labbra affamate di sapori e odori che rompono barriere, abbassano difese, accorciano distanze e uniscono le nostre anime a metà.